banchino? Eh? Devo svegliare qua. A te stanotte ti piombo dei preparati, non preoccupa. Tu non è manco di Rocondo, eh? Questo rosso assieme a te, quel pane culo! Che altro? Brutto figlio di puttana! Ma che veramente? No! Avete finito! Brutti coglioni! Maledetti che siete! Il calcio ti dà la testa, è vero? Ti fa praticare quel cervello malato che tieni, è vero? Brutto stronzo! Ma che, non c'è niente altro da fare? Non sarebbe di andare a mare così ti riempie il capo il cervello?